9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 7 di giugno. Da venerdì, dopo una settimana di mercati che hanno preso a sberle la credibilità delle misure fin qui assunte un po' da tutti i paesi europei per la sostenibilità del debito, l'euro continua a scendere, lo sappiamo, gli spread sul Bund di tutti gli altri paesi dell'euro peggiorano in 5-6 sedute di quanto non era avvenuto nel lento avvicinamento alla crisi greca prima della sua esplosione. Insomma, bisogna aggiungere altre misure per la credibilità e lo devono fare non solo i paesi più esposti al rischio, un po' tutti. In Germania, si apprende alla fine della settimana, la Merkel taglia le piante organiche del pubblico impiego di 15.000 dipendenti. Taglia dipendenti, non è che ne blocca gli aumenti previsti come da noi in Italia nei prossimi 3 anni per il contratto che era stato sottoscritto con il ministro Brunetta nell'autunno dell'anno scorso. No, 15.000 dipendenti in meno. In Gran Bretagna il nuovo premier del governo di coalizione, il conservatore David Cameron, annuncia in un'intervista al Sunday Telegraph ieri lacrime e sangue, dicendo bisogna parlare la verità, e la verità non era quella del governo laburista uscente che prometteva una crescita del 3%, ma quale crescita del 3%? Noi abbiamo fatto un deficit di 14 punti di PIL, dice il premier britannico, nel 2009, ne faremo uno di almeno 11 punti e mezzo di PIL quest'anno. In queste condizioni bisogna ripensare l'idea stessa di Stato sociale, perché altrimenti ci troviamo a spendere molto rapidamente più interessi sul debito pubblico britannico di quanto non ne spendiamo in generale ogni anno per la scuola e la sanità, e quindi bisognerà tagliare. E anche lì si parla di tagliare i pubblici dipendenti di almeno 10.000 botte anno per anno, non, ripeto, gli aumenti alle retribuzioni in più. Poiché avete appena ascoltato il presidente dell'ANM che vi ha per l'ennesima volta dicendo che chi critica lo sciopero dei magistrati per essere sottoposti come tutti i pubblici dipendenti allo stop per alcuni anni degli aumenti dei loro stipendi, lo avete sentito dire che chiunque non ritiene quella misura un attacco istituzionale alla magistratura racconta balle, peccato che loro non dicano che sono l'unica parte del pubblico impiego con la progressione automatica delle funzioni, delle qualifiche e delle retribuzioni. Ecco, questa è la differenza tra l'Italia e il resto dei paesi. Sono un po' duro e radicale nel richiamare alcune di queste differenze, però ho l'idea che una classe dirigente seria dovrebbe espandere la consapevolezza di ciò che bisogna fare per impedire che i mercati altrimenti travolgano i paesi e chi li dirige. I mercati chiedono misure nuove, misure credibili, e forse ci vuole un senso di responsabilità condiviso. Tra le aggiunte di questi ultimi giorni alla manovra italiana di 1,6% di PIL, innanzitutto è venuta questa iniziativa annunciata venerdì scorso al G20 a Busan in Corea dal ministro dell'economia Giulio Tremonti, d'accordo con Silvio Berlusconi, l'avevano concordata la sera prima, un annuncio di liberalizzazione, quindi una parte della manovra che serve a fare più crescita e non solo più rigore nei conti pubblici, a dare più energia e spazio all'impresa e al lavoro per far crescere il denominatore, il prodotto interno lordo. Di che si tratta? L'annuncio per il momento è relativo a un testo che dovrebbe innovare, modificare l'articolo 41 della Costituzione, quello che stabilisce le garanzie ma mette anche i limiti alla libertà d'impresa, ed è stato presentato come un'iniziativa di liberalizzazione, di autocertificazione delle piccole e medie imprese in tutti i campi, tranne, esplicitamente ha detto il Ministro dell'Economia, quello che ha a che vedere con la finanza e quello che ha a che vedere con le attività immobiliari. Cioè non è che si tratta di costruire in libertà, ma per tutto il resto, nei rapporti con la pubblica amministrazione, quindi autorizzazioni, licenze, concessioni e così via, si dovrebbe trattare di una ampia svolta di autocertificazione. Abbiamo letto sui giornali, soprattutto sul Corriere della Sera, che su questo c'è una campagna da qualche tempo a questa parte, che forse questa modifica costituzionale, dice il Corriere, istituto della carta costituzionale, non è così necessaria, basterebbe prendere un testo, lo statuto dell'impresa di cui hanno riccamente parlato ieri, che giace in Parlamento, per ottenere gli stessi effetti. Tentiamo esplicitamente di capire meglio subito questa prima parte della manovra, perché io non ho molto l'idea che in definitiva lo statuto delle imprese sia davvero il meglio del meglio, anche se ho grande rispetto per chi l'ha portato avanti. Poi, in più, seconda parte della trasmissione, ci occupiamo dei problemi relativi alla richiesta venutaci dall'Europa di accelerare i tempi di attuazione per la parificazione della vecchiaia delle pensioni di pubblico impiego per le donne, quindi 65 anni come gli uomini, non al 2018 come era l'intenzione del governo, non al 2016 ma prima, e sui giornali di oggi trovate che l'ipotesi è quella di accelerare ulteriormente, anche se però il governo vuole continuare a mediare. Trovate numerose dichiarazioni di esponenti del governo come di esponenti del sindacato che dicono: stiamo attenti perché già stiamo andando con la mano pesante nel settore del pubblico impiego e nello stop agli aumenti retributivi, ci sono aspettative di vita complesse, e accelerare dicendo dall'oggi al domani entro 2 anni si alza di 5 anni il limite per il pensionamento significa andarci con le mani troppo pesante. Anche qui problema aperto, io sono dell'idea che ogni tanto bisogna accelerare rapidamente, e oltretutto in questo caso l'inflazione all'Italia viene elevata perché noi facciamo disparità di genere a danno delle donne, perché a differenza di quello che si può immaginare, non è che andare in pensione prima con meno versamenti significa avere poi trattamenti per numerosi decenni dopo, visto l'aspettativa maggiore di vita, ancora più bassi rispetto a quanto non siano nel nostro paese. Ok, cominciamo allora dalla parte relativa alle liberalizzazioni. Abbiamo con noi in questi primi minuti, lo ringrazio perché glielo abbiamo chiesto l'ultimo secondo, Vincenzo Boccia, che è il presidente della piccola industria di Confindustria. Buongiorno presidente Boccia. Buongiorno a lei, buongiorno ai cari ascoltatori. Allora, che si può dire intanto di questa buona intenzione del governo, ma in concreto, cambiando l'articolo 41 della Costituzione, che cosa in concreto ne potrebbe venire alle imprese italiane? Beh, noi lo vediamo positivamente, lo abbiamo detto e dichiarato, e diciamo, devo fare una premessa, cioè se questo è il punto di inizio, come sembra essere anche della dichiarazione del Ministro, e cioè occorre cominciare, è un ottimo inizio. È evidente che se lo consideriamo come un punto finale facciamo un errore tutti. E quindi tutto quello che semplifica la vita delle aziende e riguarda la libertà economica, che è la dimensione delle dimensioni, è un elemento che dobbiamo cogliere con positività. Come anche, lei lo citava prima, lo statuto delle imprese, è evidente che però questi due elementi insieme hanno necessità di un meccanismo parallelo e complementare ed immediato, che sono decreti attuativi operativi che rendano coerenti, come dire, i dichiarati del dettato e delle intenzioni con quelle che sono, dovrebbero essere i fatti. Un esempio, noi veniamo da una missione la settimana scorsa in Cina. Io sono rimasto colpito dai governatori delle municipalità cinesi che fanno concorrenza tra di loro per fare in modo che si abbassi il livello di tassazione per recuperare investitori e attrarli. Ecco, noi invece mi sembra che a volte andiamo su una idea diversa di concetto di economia. Si fa a gara ad aumentare l'IRAP, per esempio, giusto per dirne una, diciamo, e cominciare, non con vena polemica, ma mi consenta, diciamo, il lunedì e quindi altro che un po' di sana arrabbiatura. Lei pensa, visto l'effetto che questi anni hanno avuto cose come lo sportello unico, eccetera, eccetera, cioè, insomma, diciamo forse qualche eccesso di annunci rispetto poi a una grande farraginosità poi nel cambiamento concreto. Cominciare dalla Costituzione rispetto a ciò che si potrebbe fare nella legislazione ordinaria e soprattutto a colpi di regolamento, non sarebbe preferibile forse la seconda strada? Sì, ha perfettamente ragione. Noi pensiamo che sia una questione mentale ed educativa, diciamo, del Paese e anche comportamentale. Quindi dovremmo evitare, come dire, leggi che richiamano ad interpretazioni, dobbiamo evitare, diciamo, tutte queste cose. Però è anche evidente che in questo momento forse la legittimazione sociale del ruolo dell'impresa e la questione economica, che è la questione delle questioni, vada anche chiarita con annunci come questo, che non sono una provocazione, ma che pensando e parlando della modifica della Costituzione forse fanno capire che questo inizio è un inizio importante. Se vogliamo diventare un paese che politicamente conta nel mondo, dobbiamo ripartire dalla questione economica. Ritorno, le chiedo scusa se faccio un paragone, ma diciamo sono fresco di questa esperienza. La Cina è diventata una potenza politica perché ha capito che prima di essere tale doveva essere una potenza economica. Noi abbiamo un tessuto industriale imprenditoriale all'altezza dei migliori paesi del mondo. Se riusciamo a stimolare con velocità, e quindi la questione temporale diventa un elemento essenziale, anche culturale, nel senso di approccio, perché è evidente che non abbiamo bisogno solo di dichiarazioni, ma abbiamo bisogno di una cultura del paese che sia vicino alle imprese. E non a caso parlo di imprese e non di imprenditori, perché il problema non è la questione di classe, ma è la fabbrica e il mondo esterno, e quindi imprese forti per un paese forte e per una politica forte. Questo è l'auspicio che noi dobbiamo farci, e questa dichiarazione, ripeto, se è un elemento iniziale, diventa, come dire, una cosa su cui cominciare subito a lavorare. Faccio un esempio, l'abbiamo dichiarato ieri, una delle prime cose che auspicheremmo è la proroga, per esempio, della Tremonti-Ter, che agevola chi vuole reagire in questo momento difficile e delicato dal punto di vista fiscale. Ricordiamo che questa legge scade il 30 giugno. Io ricordo a tutti che qualunque sia la graduatoria che voi prendete in termini comparati per libertà di impresa, numero di adempimenti per addetto, giorni necessari per svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alle diverse leggi che gravano sulle imprese, numero di giorni necessario per un consulente fiscale per un'impresa per adempiere all'obbligo fiscale, numero di giorni necessari per un avvio di un'impresa e così via, noi siamo in fondo a queste graduatorie. Allora, chiedo al presidente Boccia, l'impressione che ha lei conclusivamente in questo anno e mezzo di crisi difficile che ci accompagnerà ancora a lungo, e che poi l'impresa italiana, soprattutto la piccola, la media, poi il tessuto nervoso più forte nel territorio dell'impresa, non si è anche guadagnato in concreto con i suoi comportamenti, tentando di contenere il più possibile il rilascio di manodopera, perché poi è anche per questo, soprattutto per questo, che siamo un paese che ha meno disoccupazione, siamo arrivati all'8,7, ma insomma l'Unione Europea è quasi 2 punti più avanti di noi, e per il fatto che l'impresa è consapevole del patrimonio che sono i suoi dipendenti, e non è che come prima cosa ha pensato a diminuire le piante organiche. Allora, in tutto questo, la domanda che le faccio è, dopo questo anno e mezzo terribile di crisi, la sua sensazione è che l'impresa sia anche guadagnata in concreto un'ascesa nei consensi sociali del paese? Cioè la gente, secondo lei, ha capito che gli imprenditori stanno messi fianco a fianco insieme ai loro dipendenti, e quindi ha anche più titolo per chiedere misure di apertura del mercato per poter continuare domani con la ripresa a creare più occupazione? Oppure secondo lei il problema dello status, del riconoscimento all'impresa, resta dopo questi 2 anni di crisi esattamente come prima, nella realtà del paese che conosce, dove lei opera? Guardi, le dico questo, sicuramente c'è tanto da fare all'interno del paese, ma fasce importanti del paese lo stanno comprendendo. Questo è un paese strano in cui qualcuno, diciamo ancora oggi in tempi moderni, cerca di stimolare una questione sociale che invece all'interno delle fabbriche non esiste, perché come l'ho detto prima esiste il concetto di fabbrica e mondo esterno, e chi l'ha percepito più di tutti sono proprio le comunità interne all'impresa, cioè i lavoratori, i dipendenti, i collaboratori e gli imprenditori, perché la coerenza, diciamo, comportamentale è il miglior elemento per far capire chi siamo. E allora quello che noi abbiamo definito come piccola industria di Confindustria, cioè l'idea di un'impresa comunità e di un'impresa progetto di vita, di chi ogni mattina entrando a lavorare insieme ai propri collaboratori li guarda negli occhi e conosce nomi e cognomi, progetti, speranze, visioni, diciamo, di impresa e di persone, è un elemento che ha fatto emergere quello che nella storia del paese i nostri padri, come dire, ci hanno trasferito, e che oggi forse più che mai, per la questione recessione, per il fatto forse di saperlo spiegare meglio, esce fuori, e cioè quello che abbiamo definito la legittimazione sociale del ruolo dell'impresa in una visione di economia morale in cui non alla prima crisi siamo scappati o abbiamo pensato che il primo problema erano le persone, ma abbiamo messo al centro delle imprese le persone, e questo è un elemento che fa onore alla, come dire, imprenditoria italiana e a tutti i collaboratori, perché la comunità impresa si è compattata. Questo elemento di grande forza del paese e di tenuta sociale è un elemento che noi non dobbiamo disperdere, e su questo noi ci aspettiamo una politica economica che salvaguardi questo progetto di vita che è l'impresa italiana. Ricordiamolo che il nostro paese, secondo uno studio dell'Istat, ha un livello di tasso di imprenditorialità 3 volte superiore a quello degli altri paesi europei, e questo è il motore e la benzina del nostro paese. Stimolare questo motore significa uscire velocemente dalla crisi, non stimolarlo significa perdere qualche pezzo rispetto ad altri paesi. Allora, io ringrazio il presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Vediamo in concreto il governo tra quanto ci metterà di fronte a un testo. La modifica costituzionale è una cosa lunga, come è noto, doppia lettura. Si può partire però da questo testo, lo statuto dell'impresa, che è già in Parlamento all'esame delle commissioni e che ha alcuni punti sui quali, ne cito solo uno, la distanza tra la realtà del paese intorno a noi e i principi che affermerebbe sarebbe anche questa la norma programmatica. Pensate che non solo dell'impresa si dice che per esempio che la pubblica amministrazione ha 90 giorni come termine perentorio per saldare gli obblighi di pagamento. Allora basta sapere che nel nostro paese attualmente, per esempio nel campo sanitario, vi sono fatture inevase dalla pubblica amministrazione ai fornitori privati della sanità che risalgono da alcuni anni. Abbiamo fatto trasmissioni intere su questo, quindi le norme programmatiche hanno la loro importanza, sono per così dire norme manifesto, poi la realtà è quella che conta di più. Comunque grazie al presidente Boccia, e adesso apriamo l'attenzione su quello che poi appassiona di più e interessa migliaia e migliaia di italiani, cioè la questione se innalzare da subito, parificare l'età per la pensione dei dipendenti pubblici tra donne e uomini a 65 anni, non al 2018 come pensava il governo, ma la Commissione Europea ci chiede di farlo subito, il più possibile, entro il 2014 massimo, meglio se il 2012. E oggi sui giornali leggete che ci sono diverse ipotesi di una accelerazione. Il ministro Sacconi dovrebbe incontrare la commissaria Reding proprio oggi a Lussemburgo, ma insomma quello che si legge nelle dichiarazioni di componenti del governo, come nelle dichiarazioni di esponenti sindacali, ci sono interviste per esempio oggi al segretario della CISL, è quello di dire ma insomma sta Europa non ci rompa troppo le scatole, dateci una prospettiva graduale esattamente come quella che avevamo concordato. E allora cerchiamo di capire che cosa c'è dietro questa gradualità, se è realismo o se è un pizzico invece di spirito di convergenza tra politica e sindacato precedente alla realtà modificata negli ultimi mesi del giudizio dei mercati. Cominciamo con Giuliano Cazzola, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera. Buongiorno Cazzola. Buongiorno a lei, gli ascoltatori e i suoi ospiti. Lei che dice? Bisogna aderire alla richiesta della Commissione o comunque accelerare il 2018 ma non di troppo? Guardi, io dico questo, dico che noi il problema l'abbiamo risolto, perché sia che si risolva prima o dopo, noi alla parificazione dell'età dei dipendenti pubblici e degli uomini ci arriviamo. Credo che ci siano margini per accorciare il percorso, e io penso che si possa arrivare tranquillamente al 2016 elevando i diversi step ogni 18 mesi anziché ogni 24 mesi a partire da luglio del prossimo anno. Peraltro tutte le volte che si è toccata la vecchiaia, mi ricordo per esempio la legge Amato, no? Alla fine poi si è arrivato a fare un anno ogni 18 mesi, quindi non sarebbe la prima volta che si fa un percorso così, e volendo si può arrivare anche a metà del 2014. Questa cosa del 2012 è una crudeltà, perché ci sono anche delle ragioni tecniche, nel senso che quando si fanno operazioni di questo genere bisogna dare il tempo per uscire. Se ogni anno si sposta di un anno, è quello che non ha i requisiti quell'anno lì non li ha neanche l'anno dopo, perché l'anno dopo i requisiti sono cambiati. Quindi io credo per esempio che si potrebbe fare un anno ogni 18 mesi a partire da luglio dell'anno prossimo e arrivare a metà del 2014, ma insomma siamo ragionevoli, credo che anche l'Europa poi sia ragionevole, in quanto il rischio vero che si corre è che loro ci dicano allora trattate il percorso graduale anche per gli uomini, visto che questa è stata la visione in cui hanno collocato questa operazione, e questo farebbe a pugni sostanzialmente con le esigenze di risanamento finanziario che abbiamo, con le operazioni che stiamo facendo, con quello che ci dice l'Europa. Insomma, l'Europa non può vedere l'albero e non la foresta, ecco, quindi credo che anche loro sono persone ragionevoli e una soluzione si troverà. Quindi insomma non modificare troppo la gradualità. Eccoci tornati in studio, abbiamo fatto una prima riflessione sull'iniziativa annunciata dal governo di modifica dell'articolo 41, quindi liberalizzazione per le piccole e medie imprese. Ora siamo invece sulla questione dell'aumento dell'adeguamento dell'età pensionabile per le dipendenti pubbliche entro il 2012, richiesta dall'Europa invece che al 2018 come era il calendario. Io ricordo a tutti coloro che sono in ascolto e che non sono, diciamo così, molto esperti della manovra, che la gradualità con cui era stato disposto l'innalzamento dell'età di pensionamento dell'anzianità e di vecchiaia funzionava così per le donne nel pubblico impiego, cioè si sarebbe passato per quello che riguarda l'anzianità dall'innalzamento dai 60 anni attuali ai 61 anni nel 2011, sarebbe rimasto a 61 anni il tetto di pensionamento di anzianità fino al 2013, dove sarebbe scattato invece a 62 anni, e a 62 anni sarebbe poi rimasto, mentre invece per il tetto di pensionamento per la vecchiaia saremmo passati dai 60 ai 61 anni nel 2010, ai 62 anni nel 2012, ai 63 anni nel 2014, ai 64 anni nel 2016 e poi ai 65 anni nel 2018, quindi con una gradualità molto cadenzata e dilatata. Ci ha spiegato Giuliano Cazzola, sì, insomma, l'Europa va bene, però non si può accelerare troppo. Ma abbiamo con noi Maurizio Zipponi, che è il capo del Dipartimento Welfare e Lavoro dell'Italia dei Valori, e chiedo a Zipponi come la pensa, è d'accordo con Cazzola o invece bisogna dire sì alla Commissione Europea? Buongiorno a lei innanzitutto. Ma sicuramente il governo italiano deve mantenere la propria, diciamo così, dignità nei confronti dell'Europa, perché sarebbe facile dire all'Europa: ma scusa, spiegami come mai in Francia vanno in pensione a 60 anni tutti e non chiedi una perequazione a livello europeo, perché intervenendo sul singolo paese metti in contraddizione un sistema sociale contro l'altro. Quindi francamente la decisione presa dal governo italiano va mantenuta, anche perché, se mi permette un secondo di certo ritorno all'argomento che avete toccato, che è incredibile nella sua importanza, cioè la modifica dell'articolo 41 della Costituzione, insieme alla notizia che è stata data di quello che sta accadendo nelle borse, cosa si dimostra dalla discussione che avete aperto? È che se non riportiamo tutti come sistema paese la finanza al servizio dell'economia reale, e quindi se non diamo alla finanza un ruolo di supporto, ma come sta accadendo, la finanza invece è un ruolo di traino, di disastri, di speculazione e quant'altro, noi rischiamo di essere travolti. Per questo che dire rispondiamo all'economia reale con una modifica della Costituzione rasenta il ridicolo, perché i tempi di intervento sull'economia reale sono immediati. Per questo che se il governo portasse in Parlamento subito non discussioni filosofiche che durano 15 anni, ma questioni come la Tremonti Ter, cioè il sostegno fiscale agli imprenditori che investono, oppure alle piccole e medie imprese il fatto che l'IVA la pagano quando incassano, perché tutti sappiamo che il problema è che nessuno paga più anche se c'è il lavoro, oppure ancora il pagamento delle cose che voi avete trattato molte volte, dei soldi che le amministrazioni pubbliche devono ai servizi, alle cooperative, alle industrie che hanno lavorato per esse e pagano a 180-240 giorni come minimo. Cioè queste cose qui sono subito da fare, perché altrimenti faremo una discussione sulla modifica della Costituzione quando ormai tutti i treni sono passati e faremo solo i bei convegni. Ecco, mi scusi, come la penso esattamente come lei, in piccolo, ma no, perché la discussione sulle pensioni, per tornare alla domanda che lei mi ha fatto, sta dentro questo quadro qui, quindi ripeto, per l'Italia dei Valori tutte queste norme, anche se vengono dal governo a cui noi ci opponiamo fortissimamente, sono norme che noi approviamo subito senza perdere un attimo di tempo, perché sappiamo che è prevalente l'interesse per il paese tirarlo fuori da questa tenaglia terribile in cui la finanza decide tutto, anche che tipo di produzione si fa, anche che tipo di equilibrio economico ha un paese, e sta ammazzando totalmente la piccola media impresa. Ecco, qui dentro questo è chiaro che una sana e saggia gestione della spesa pubblica interviene su grandi questioni come il sistema pensionistico. Allora, sul sistema pensionistico diciamo due o tre punti brevissimi. Il primo è, come dice Tremonti, il nostro sistema pensionistico è in equilibrio, perché una riforma dietro l'altra ha fatto sì che da qui al 2050 abbiamo una spesa pensionistica al pari delle grandi democrazie europee. Certo che quando un governo è debole e non è in grado, come in Italia, di intervenire sul 26% di evasione di ricchezza prodotta, e quindi l'evasione, come ha detto Draghi, fermiamoci alle pensioni perché sennò ci allarghiamo troppo, è il cancro, E allora intervenire sulle pensioni è come andare a un bancomat, cioè lei non ha altri strumenti, non fa altro, interviene sulle pensioni. Allora, per quanto riguarda le pensioni alle donne del pubblico impiego, io penso questo, che le donne fanno, non solo del pubblico impiego, tutte le donne normalmente fanno tre lavori. Uno che è il lavoro proprio di dipendente o libero professionista o imprenditrice, due fa un lavoro, è un nome che metto appunto accanto pur provocando, un lavoro di riproduzione perché non viene mai riconosciuto una donna quando va in maternità, terzo una donna fa anche il lavoro di assistenza, tre lavori. E quindi allora, lei dice andiamoci piano prima di usare la ghigliottina, fermo perché c'ho altri ospiti, aspetti un secondo, dica questo ma concludendo rapidissimamente. Scusi, un secondo solo, se si va a 65 anni, io dico che va contato come anni contributivi questi lavori che le donne fanno, perché se no la pensione come adesso di vecchiaia è a 650-700 euro al mese. Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Allora abbiamo poi Irene Tinagli, qui sono sempre solo uomini che chiacchierano, io per primo. Irene Tinagli insegna economia all'Università Carlo III di Madrid, editorialista della Stampa, ha scritto: le donne per prime dovrebbero essere a favore di quello che chiede la Commissione europea. Prego, professoressa Tinagli. Salve, buongiorno. Sì, assolutamente, a me colpisce molto che alla fine molte delle voci che si sentono in questi mesi, perché comunque è un po' che si parla dell'allentamento d'età pensionabile per le donne, sono tutti uomini, ho sentito, no? E che rivendicano questo diritto per le donne per poterle tenere a casa, a fare le mamme, le nonne, a badare. Il ruolo riproduttivo, per ricordarlo, è di tutti e due, uomini e donne, cioè la funzione genitoriale di tutti e due, quindi a me colpisce molto questa cosa e credo che finché le donne non si emanciperanno da questo, cioè invece di chiedere o di accettare, come dire, dei trattamenti di favore perché devono stare a casa a badare ai vecchi, devono ribellarsi a questo e dire no, non dateci nessun tipo di trattamento di favore, fateci lavorare tanto come gli altri e poi preoccupatevi di o di dare un contributo di più voi a casa o di fare servizi per gli asili, per l'assistenza. Questo secondo me è quello di cui si dovrebbe parlare. No, anche perché poi questa storia qua che di tenervi a casa eccetera, poi in realtà tutti i disincentivi del nostro sistema fiscale amministrativo sono contrari alla famiglia, alla fecondità eccetera appunto, eccetera, quindi è proprio un controsenso, diciamo. Ma appunto, ma perché questo è stato una sorta di sociale perverso che c'è stato in Italia con le famiglie, no? Per cui c'è stato, vabbè, noi non facciamo molto sul fronte dei servizi, spendiamo pochissimo perché l'Italia spende molto poco per i servizi alle famiglie e all'infanzia, spende la metà pari pari della media dei paesi OCSE, però in compenso magari, che ne so, siamo più generosi con le pensioni di invalidità, mandiamo le donne in pensione prima, per cui si crea questa sorta di compensazione che secondo me è una logica perversa e sbagliata, perché poi finisce davvero che tanta della nostra spesa sociale finisce in voci improduttive, in supportare inattività e poi manteniamo delle carenze enormi che invece potrebbero aiutare il paese ad essere più attivo e produttivo, cioè i servizi che supportano le persone quando poi hanno bisogno di lavorare e essere attive. Una prima rapida telefonata agli ascoltatori perché poi abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, sentiamo Nicola dalla provincia di Milano, rapido. Sì, buongiorno Oscar, complimenti per la trasmissione. La mia domanda è molto semplice, volevo capire perché non è possibile che tutte le pensioni, indipendentemente dal reddito, abbiano un valore fisso e determinato, diciamo 1000 euro, diciamo, nel senso che non ho strumenti per sapere se, cioè, è lei dice un trattamento previdenziale uguale per tutti, mi scusi, dica perché. Nel senso, io sono un libero professionista, mi sono laureato, ho cominciato la mia attività con mio padre e ho fatto quelli che corrisponderebbero in termini di progressione del mio reddito, lo stesso avanzamento che ho verificato essere simile a quello dei magistrati che hanno la mia età, sì. In questo momento hanno circa 40 anni. Sì. Qual è la differenza? Quando io avrò 65 anni andrò in pensione e diventerò povero perché non avrò più il mio reddito e se avrò messo via perché è libero professionista, eccetera, eccetera. Ora ho colto. Qui è la richiesta del libero professionista che vuole pensioni uguali per tutti, perché dice i dipendenti, che si lamentano molto, cioè i signori magistrati, che in realtà poi vanno con una ricchissima pensione rispetto a me, almeno se la mettiamo uguale per tutti. Era una provocazione, ho capito, Nicola da Milano, perché per un momento ho pensato di essere in onda con una sessione del congresso popolare cinese, che, ecco, però ho capito adesso il senso della sua provocazione. Va bene, eccoci tornati in studio. Stiamo ragionando sull'ipotesi richiesta dalla Unione Europea di accelerare i tempi di attuazione dell'innalzamento dei tetti per l'età pensionamento di vecchiaia e di anzianità per le donne pubbliche dipendenti. Irene Tinagli, io mi ritrovo molto in quello che ha detto, ci ha ricordato che le donne dovrebbero per prime essere a favore di questo innalzamento rapido, perché è un capovolgimento della ipocrisia che ispira le politiche da una parte concrete, cioè disincentivi che vengono dal nostro sistema amministrativo fiscale a famiglia, sostegno disabili, fecondità, eccetera, eccetera, e poi l'argomento con cui invece si maschera e si tenta di vendere il fatto che si danno tetti di pensionamento più bassi alle donne. Sentiamo ancora ascoltatrici che ne pensano. Fiorella da Alessandria, che ne pensa Fiorella? Buongiorno dottor Giannino e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Io sono una donna di 65 anni compiuti, parlo da Alessandria, quindi una città del nord, diciamo evoluta, e mi trovo a dover non essere d'accordo con la dottoressa Tinagli. Io ho una figlia che è laureata e in lei, diciamo, ho messo tutte le mie aspettative, nel senso che io ho uno studio di scuola superiore. Pensavo che per lei fosse tutto diverso. Mia figlia ha una nipotina e io al pomeriggio, quando mia figlia lavora, quasi sempre, diciamo, in linea di massima, io accudisco la mia nipotina, sì, dall'una alle sette di sera. Io speravo, ho vissuto da esterna il movimento femminista, speravo fosse tutto diverso, ma non ci sono le strutture. Allora do ragione al signore dell'Italia dei Valori. Ah, ho capito, la sua tesi è quindi per il momento i supporti pubblici, per il momento, per questo ci diceva, mi occupo del nipotino, non ci sono, e quindi tutto sommato forse l'universo descritto da Irene Tinagli è ancora un universo ideale. Sentiremo da lei la risposta. Sentiamo un'altra voce di ascoltatrice, Ivana. Questa volta Ivana ci chiama da Latina. Prego Ivana, come la pensi? Sì, buongiorno. Senta, io sono una lavoratrice del pubblico impiego, sono un'infermiera. Io ho iniziato a 17 anni a lavorare e con i lavori peggiori che possono esistere. A 33 anni ho iniziato il corso da infermiera professionale e lavorando di giorno, di notte, studiando, cioè ho fatto dei sacrifici immani. Adesso sono 22 anni che sono nel pubblico impiego, facendo i lavori peggiori, perché ho fatto 17 anni di psichiatria, l'SPTC il peggiore. Adesso sì, sono approdata in un posto, diciamo, un pochino più decente, sono alla centrale operativa del 118, è vero, sto seduta, ma faccio un lavoro mentale veramente, guardi, massacrante. Allora voglio dire all'onorevole, quella che ha parlato prima, la dottoressa, non so chi sia. La professoressa, allora, Tinagli, sì. Ecco, allora, lei naturalmente dice meglio 60 e meglio gradualità, ho capito. Allora, io sono quasi arrivata alla pensione. Voglio dire, sono una persona che ha lavorato con figli, sì, non si può sapere quello che ho fatto, i sacrifici immensi. Sì, però non ho mai avuto aiuti tutti da nessuno. D'accordo. Non c'è, allora, ascolti, qui non ci sono neanche i presupposti per parlare di asili nido, di nulla. Cioè, ma che ci stiamo inventando? Cioè, la maternità oggi non la pagano più a nessuno, questi giovani che sono arrivati, nessuno prende più la maternità, e i figli oggi non lavora quasi più nessuno. Ma di che stiamo parlando? Ma siamo tornati indietro di 100.000 anni, e qui volete che le donne anziane ancora portano avanti l'Italia quando i giovani sono tutti a casa seduti. Grazie, ma... Ivana, l'argomento è chiaro. Io radicalmente, Ivana, rispetto la sua cosa, non sono d'accordo su niente di quello che lei ha detto. Ma lo dico con grande rispetto, lei presenta un lavoro al centenario 118 come una cosa di guardi che temo che molti di noi e quasi tutti fanno lavori almeno paragonabili a un centenario 118, e le assicuro, glielo dico col più totale stima e rispetto per un percorso personale di vita come quello che ci ha descritto. Però o noi ci ricordiamo di quello che adesso ci dice il professor Golini, che abbiamo in attesa da parecchio. Fa il demografo il professor Golini, e forse bisogna che ci ragioniamo su cosa è capitato nell'orizzonte, nel cambiamento dell'intero orizzonte della nostra aspettativa di vita. Noi invece che ragionare che a 50 rotti anni, come Ivan lei ha, si dice io adesso però me ne vado in pensione e c'è sempre una buona spiegazione per cui ho smesso di lavorare. Qual è questa curva temporale del nuovo universo delle aspettative di vita in cui siamo, professor Golini, che insegna demografia alla Sapienza e scrive sul Messaggero? Prego, professore, ce lo ricordi un po'? Buongiorno a tutti. Dunque, fortunatamente le cose per la nostra sopravvivenza vanno bene. Fortunatamente, perché l'alternativa a una longevità prolungata, quale quella che stiamo vivendo, è peggiore assai, perché l'alternativa significa togliersi fuori dai piedi o fuori dal mondo, per meglio dire. Allora, diciamo che una donna che abbia 60 anni oggi si può aspettare di vivere ulteriori 26 anni. Fortunatamente, e ad arrivare a 60 anni, 65, è il 95% delle donne, perché siamo riusciti a sconfiggere quasi del tutto la morte precoce. Ora, questo è un fatto straordinariamente positivo per la nostra popolazione e per le singole persone, evidentemente, e questo però significa un mutamento di tutto il contesto, non solo demografico, ma a partire da quello demografico, il contesto sociale, economico, produttivo e poi quindi di sostenibilità del sistema previdenziale. Allora, in un articolo proprio sul Messaggero, come lei ricordava, io ho fatto questo semplicissima considerazione e attiro l'attenzione anche degli ascoltatori su questo. Una persona che comincia a lavorare a 20 anni, cosa piuttosto rara adesso, ma comunque ammettiamo che comincia a lavorare a 20 anni, ha passato i suoi primi 20 anni largamente, non esclusivamente, ma largamente a carico della collettività, che ha contribuito in misura sensibile a pagare le spese dell'istruzione, e ricordiamo che l'istruzione è gratuita nella scuola dell'obbligo per chi ne fruisce, ma non è gratuita perché evidentemente si pagano gli insegnanti, si costruiscono gli edifici e quant'altro. Allora, dicevo che se va a lavorare a 20 anni ha fruito per i primi 20 anni dei soldi del contribuente, poi dei soldi del contribuente, istruzione, per l'istruzione e la salute. Poi se va in pensione a 60 anni, dicevamo che si può aspettare di vivere ulteriori 26 anni, quindi e anche in questi 26 anni sta largamente a carico del contribuente, sia per la salute sia per le pensioni. Allora, 20 anni prima di lavorare. Quindi 20... sono 46 anni a spese della A e 40 anni come contribuente per la parte del lavoro. Questo è il bilancio. Questo è il bilancio. Ecco, allora, io su questi numeri di Golini devo fare un'ultima domanda rapidissima a Irene Tinagli. Professoressa Tinagli, Irene, qui il problema è che tante donne di fronte ai nostri ragionamenti ci rispondono: fatelo voi, state scherzando, ma perché dovete sempre protrarci l'orizzonte di vita? Vogliamo andare in pensione. Come si fa a rendere popolari e a convincere i nostri argomenti con le ascoltatrici e tante come loro a casa invece dicono no grazie? Ma non è semplice, perché questo è veramente un cambiamento culturale. Credo che una piccola, neanche tanto piccola cosa che potremmo fare è davvero legare questi risparmi, o comunque veramente fare questa promessa, questa pledge, legare i risparmi che derivano dall'innalzamento dell'età pensionabile a un investimento parallelo in servizi per l'infanzia. Per l'infanzia e la famiglia. E questa mi sembra un'ottima e femminilmente molto concreta, più di quanto facciano i politici maschi. Io becco molti insulti dagli ascoltatori maschi che dico che li sfotto dicendo che sono maschietti. Io ripeto, anche alla fine di questa trasmissione, trovo che, come vedete, una proposta concreta poi è venuta da sarà un caso, però, dalla professoressa Tinagli. Però la penso così, e alla fine di questa trasmissione, in cui abbiamo buttato un orecchio ai mercati che continuano a squillare la campanella, io dico che la mia opinione, la penso come Zipponi, cose rapide, perché i mercati hanno bisogno di risposte rapide, poi bisogna mettere anche un po' di sabbia nei mercati e non eccedere, non credere che i mercati abbiano sempre ragione, però insomma non bisogna pensare che solo gli altri debbano fare ciò che nel nostro paese abbiamo l'abitudine a fare troppo lentamente, troppo tardi e troppo male. Quindi in conclusione la mia opinione è che l'Europa ha fatto bene a tirarci le orecchie per innalzare e rendere più rapido il processo di parificazione dei tetti di pensionamento tra dipendenti uomini e donne, e vedremo se questa iniziativa di liberalizzazione dell'autocertificazione della piccola e media impresa annunciata ora dal governo diventerà presto davvero qualcosa di concreto e non la solita chiacchiera. Grazie a regia Carmelo Lauricello, grazie a redazione Alessandro Marco Tutti, linea al giornale radio, appuntamento a domani.